Perché Fantasia muore? Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. Che cos'è questo nulla? È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo. E io ho fatto in modo di aiutarlo. Ma perché? Perché è più facile dominare chi non crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere. Se tanto dobbiamo morire, preferisco morire lottando. Che viva l'XM, sempre! Una città dentro la città, un organismo in continuo movimento, un grande formicaio in divenire, fondamentalmente una gigantesca utopia di autogestione che resiste. Radio Contado è al corteo, RXM 24, siamo qua in piazza 20 settembre a Bologna, deve ancora partire. C'è un casino di gente, il vostro Beppe Manin vi saluta da Bologna. XM è un luogo di immensa ricchezza per la Bolognina e tutta la città e merita di essere riconosciuto e tutelato, un presidio sociale e politico aperto a tutte e tutti, è uno spazio di condivisione, di solidarietà, di cultura, di socialità libera, totalmente al di fuori delle logiche di mercato e aggiungo ora io personalmente di servitù dello Stato. Ecco, i trattori di Campi Aperti stanno cominciando a muoversi, alla testa un colossale John Deere che fa impallidire i mondeggini più entusiasti. Ok, adesso il corteo si sta pian piano muovendo, sono previsti 66 spezzoni circa, il percorso è di una lunghezza inenarrabile, probabilmente la durata è stimata attorno alle 9 ore e mezza. Ok, c'è tutto da Bologna, c'è Willy, c'è l'XM, tutte le realtà, c'è della Bonviewer, c'è del gin tonic, ci sono i bambini, i trattori, le magliette, le bande, i cori, direi che si può partire. Tutte le realtà di Bologna sono presenti, veramente direi che non manca nessuno. Allora, i bambini davanti, tutto il resto dietro. Andiamo col prossimo pezzo. Da paura, ci saranno 5.000 persone? Forse anche di più, tanti spezzoni belli colorati, ora siamo in mezzo ai trattori di Campi Aperti, c'è questo fantastico venticello mescolato a gavettoni e superliquidetoni. No, c'è una paura che mi arrota Michele. Vai, questo momento. Oggi è la storia infinita contro il nulla che avanza, la storia infinita di cui facciamo parte tutte e tutti e che vogliamo continuare a scrivere. Oggi a Bologna la nostra è la storia infinita contro la storia di un'amministrazione che invece è finita perché non c'è, inesistente, incapace di capire il presente, incapace di pensare al futuro e incapace di capire quanto le persone abbiano voglia e bisogno di spazi. E quindi le persone oggi si prendono le strade, gli spazi, vogliono XM fuori da XM, eccoci qua per la prima volta, incredibilmente, siamo per strada tutti e tutti assieme. Le relazioni che sono costruite attorno a XM in questi 17 anni sono veramente estesissime, cioè veramente solidarietà ne è arrivata da un sacco di città diverse e un sacco di persone diverse, perché XM ha sempre voluto puntare sulla diversità tra le persone, tra le idee che passano nello spazio, per cercare di costruire qualcosa, di arrivare a qualcosa di misto in costante mutamento che porti a un cambiamento, sempre con l'idea di un cambiamento sociale forte, di costruire un'alternativa forte. C'è uno spezzone di famiglie per XM che nelle ultime settimane sono usciti con questa raccolta firme e volevano essere presenti qua in piazza perché a XM, che se ne dica, ci sono anche i bambini, ogni tanto passano. E in particolare qualche giovedì fa è stato bellissimo, abbiamo fatto un contest improvvisato dello zecchino d'oro con un bambino che ci ha fatto un rap su quanto gli piace XM e vuole rimanere, un ragazzino di 10 anni, che mi sta super simpatico. Ieri è uscito un appello di bibliotecari e bibliotecari, di insegnanti, tutta un moto spontaneo di supporto e solidarietà per XM e di persone che hanno capito che la giornata non è solo per XM ma per l'autogestione, non solo per queste due cose ma per continuare a provare a costruire qualcosa di diverso e rendere possibile l'impossibile. Insomma. Sono le 6, siamo arrivati in via Ernerio, c'è un bordello di gente di tutti i tipi, al momento è stato percorso circa un ventesimo del percorso, si va avanti. Grande partecipazione della città, di tutta quella parte della città che non si addormenta sulle posizioni ufficiali, diciamo. C'è bisogno di situazioni come quella di XM, come ce ne possono essere altre, si spera, o come ce ne saranno altre, si spera. Non c'è risposta da parte dell'amministrazione, non... sembra che almeno a Bologna ultimamente si pensa solo allo sviluppo turistico, che poi vabbè, voi siete di Firenze per cui lo sapete meglio di me. Per il futuro non lo so, se XM non ci sarà più, io spero che ci saranno mille altri spazi, magari differenti, magari con più piccoli, con caratteristiche però inclusive, e che da appunto si chiude una porta e si aprono 10.000 finestre. No, è la prima volta che vengo a Bologna, attraversare una città per la prima volta in un quartiere del genere, che è una festa, è una grandissima felicità. Poi sicuramente è un fatto importante venire da Napoli e stare qua in difesa di uno spazio storico in vista di quello che potrà succedere in tutta Italia. C'è l'attacco agli spazi sociali, l'attacco a posti che provano a mettere in pratica alternativa di vita. Dobbiamo farci trovare pronti, compatti, che sicuramente non basterà scendere in piazza e fare festa, perché l'attacco che stiamo subendo è molto forte. Quindi siamo uniti, siamo solidali e prepariamoci veramente a una grande guerra. Mi ha impressionato molto questo striscione a inizio corteo, If the Kids Are United. Questo corteo inizia con i bambini, della cosa più importante, perché il futuro è nei bambini e XM non può chiudere. Questa manifestazione è incredibile, fantastica. La prima uscita di XM per strada e ha chiamato tantissima gente da tutta Italia. Io vengo da Napoli per XM. E in questi 11 anni di storia abbiamo marciato più volte a fianco di XM24. Mi aspettavo forse meno gente, e invece sono molto sorpresa nel vedere che c'è veramente tantissima gente. Spazi autogestiti di qualsiasi, diciamo, entità politica ormai li stanno sottraendo praticamente tutti, e da La Ba l'anno scorso a Gregor insieme a Crash, che vabbè adesso ha rioccupato, però comunque c'era anche quello, e lo sgombero di XM, che insomma lo sentiamo abbastanza imminente come minaccia. Affitti che crescono sempre di più, ordinanze per cui non si può più vivere nello spazio pubblico, parchi che chiudono. Io abito a San Donato e proprio nel parchetto sotto casa mia hanno appena sbarrato, cioè chiuso con delle transenne, gli unici tavolini dove potevamo andare di sotto a mangiare proprio in maniera molto serena, dove il quartiere tra l'altro scendeva e mangiava insieme. La Bologna che ti immagini, quella che ti piacerebbe di vedere pian piano realizzata? Spazi come quello di XM24 moltiplicati, parchi dove possiamo andare a vivere in maniera proprio conviviale, serena, affitti più bassi perché non sono più veramente sostenibili anche per una persona che lavora, e meno negozietti di food finger in giro e più gente verace. sta diventando, non so Firenze come sia, però io, cioè, da quando ero felicissima di essere andata via, mi stai registrando? No, questo no, vabbè, sono andata via da Firenze perché stava diventando così, sono venuta a Bologna e è successa la stessa identica cosa. Questi spazi qui ti fanno respirare, c'è la possibilità di stare insieme, di creare relazioni diverse, e diverse nel senso proprio veramente di solidarietà. Allora, noi siamo degli insegnanti che attraverso un appello di solidarietà XM24 ha raccolto addirittura 250 adesioni. Questo appello è nato proprio da insegnanti della Bolognina, che è il quartiere dove ha sede XM24, e poi si è diffuso in tutti i quartieri popolari di Bologna in particolare, ma non solo, della città tutta. Noi nel nostro appello abbiamo ribadito che quella che è stata la narrazione un po' tossica, nociva, di tutti questi anni della politica e dei mezzi di informazione di XM24 come estraneo alla realtà del quartiere era completamente falsa. Noi come insegnanti pensiamo anzi che in tutti questi anni sia stata una risorsa fondamentale, perché ha dato come spazio pubblico autogestito delle risorse perché ciascuno potesse mettere in campo le proprie creatività, la propria capacità, potesse vivere una socialità libera, godere di arte e musica senza essere all'interno del circuito diciamo della mercificazione, che è quello che esclude ampissime fasce di alunne e alunni e delle loro famiglie che abbiamo nelle nostre scuole, nei quartieri popolari. Noi abbiamo a che fare con persone che nella città dei Deor ed è patinata non possono altro che essere esclusi, rifiutati. Invece noi a scuola ogni giorno lavoriamo per l'inclusione, per fare della scuola un presidio, un argine alle disuguaglianze, e quindi abbiamo trovato una grande affinità tra quello che facciamo ogni giorno noi a scuola e quello che fa XM24, e per questo abbiamo dato il nostro sostegno. Era doveroso fare questa manifestazione visto che è tre anni che si fa il ping pong con XM, che ci sono partite politiche in città sulla testa di XM24, cioè il PD si sta giocando una partita interna su XM tra una parte che vuole sgomberare a tutti i costi e l'altra che non gliene fregherebbe nemmeno troppo. Però si stanno facendo una partita con la Lega per chi sgombera per primo e in che modo, in maniera più scenografica, più eclatante, e nel frattempo XM ovviamente, di fronte al deserto che è stata fatta la città, continua a portare avanti, voglio dire, spazi di aggregazione, di socialità dal basso e anche di, so come dire, di alternativa immaginazione politica. Oggi si sta vedendo una risposta, ci sono moltissime persone in strada. Siamo molto contenti, c'è una partecipazione molto grossa, e poi sembra che questo corteo esprima, non so come dire, la moltitudine di soggetti che attraversano XM24, tra cui anche noi contadini. XM è un punto di riferimento fondamentale per la sperimentazione sociale a Bologna. Per noi cantadini è stato il primo posto dove abbiamo fatto il mercato, la nostra prima casa, il nostro mercato più importante tuttora, e per noi è un luogo fondamentale di costruzione di un'economia alternativa, di relazione con altri soggetti. Ora lo vogliono chiudere e stiamo combattendo per impedirlo. Ma cosa ne pensi di questo John Deere? Salvatore se l'è comprato quando era ancora ricco. Poi dopo, vabbè, adesso. Ok, sono le 7:30, sono arrivati all'altezza del Bernelli, quindi direi che siamo quasi a metà. Corteo di massa a Bologna ultimamente ce ne sono stati diversi, questo è molto numeroso, dalla cifra della solidarietà che c'è verso XM. Come come si sta a Bologna ultimamente, in questo ultimo periodo? E che aria si respira? Ah, il caldo! L'aria si respira che c'è poco lavoro, o meglio c'è, ma è sempre pagato poco, i diritti sempre meno. E la situazione come quella che è successa a XM, insomma, provano a far finire qualsiasi esperienza diversa dalla gestione capitalista di questa società. E ovviamente per questo che c'è anche un appoggio di massa alla lotta che XM sta facendo oggi. Ci sono migliaia di persone, devo dire che è un buon segnale. Come sta andando questo corteo? Sei contento? Bene, bellissimo, bellissimo. È una figata, questo corteo è gigantesco, è diversissimo, ci sono colori, facce, personalità bellissime, tutte diverse. È una ricchezza, è una grandissima ricchezza questa diversità. Per fortuna ci sono tanti anticorpi a Bologna, ci sono tantissime persone che a questa cosa non gli va bene e quindi si salta, si balla e si fa casino. Vorrei che queste persone che sono in questa città ci fossero tutti i giorni, vorrei che ci fosse organizzazione, autonomia e convivenza buona, quella buona che ti permette di costruire cose insieme. Siamo super felici, penso, no? Una giornata caldissima. No, siamo contentissimi perché era importantissimo per tutti noi essere qua, siamo felicissimi di esserci col nostro carro isolano. L'unicarro. Non ci avevamo mai sperato perché come sempre abbiamo organizzato le cose all'ultimo, però siamo super felici di aver fatto questa cosa per XM perché siamo tutti legatissimi a XM. Il glorioso spazio Atlantide, mamma mia che bello che era, guardalo là, c'è un po' di compagni del Berneri sul tetto, si sta molto molto bene. Andiamo a approfondire. Dai, grandissima giornata. Boia. Vedo della gente dentro Atlantide, oh mio Dio, non ci posso credere. Stiamo ripartendo, c'è stata anche una riapertura simbolica dell'Atlantide, purtroppo non sono atterrato. Però è stato molto emozionante rivedere l'Atlantide aperto, molto molto emozionante. Quanto la città non si faccia mettere i piedi in testa da quelle che sono politiche totalmente lontane dal sociale, che non tengono conto di quelle che sono le volontà stesse della popolazione. XM è un'istituzione ed è la storia di questa città e nessuno permetterà a chi che sia di mettergli le mani addosso. Bologna sta attraversando un forte periodo di trasformazioni. Da quella che è stata la stagione degli sgomberi del precedente questore, siamo arrivati alle ultime operazioni volute dal Ministero degli Interni. Lo sgombero, o meglio, lo smantellamento dell'hub in via Mattei, che ha visto una grandissima partecipazione da parte della cittadinanza e una presa di coscienza da parte degli stessi ragazzi che erano all'interno di quel centro. All'interno della città abbiamo progetti come ad esempio Mediterranea, al momento purtroppo bloccata in un porto a causa di una legge fascista. Tutto questo per dire cosa? Che Bologna è una città che accoglie, è una città che accoglie e continuerà a farlo, nonostante tutto ciò che accade. Sono più o meno le 10:30, siamo arrivati in Piazza dei Martiri, che devo dire è piena di gente, è piena, incredibile. La strada per XM è ancora un po' lunghina, ma neanche tanto, ci siamo quasi. Il nostro è un progetto senza ingegneri e architetti, senza nessuna autorità al comando. E forse è proprio per questo che sconvolge e spaventa l'istituzione bolognese, che a più riprese in questi anni ha provato a cancellare l'esperienza di XM. I veri laboratori di partecipazione sono le esperienze di autogestione che nascono dal basso e non quelli organizzati dal comune. Sono spazi aperti, politici, di produzione culturale come il nostro, che non sono sussidiari allo Stato, che si radicano nei luoghi materiali, che sono presidi antifascisti di quartiere e sono esperienze di vita in comune, e continueremo a cospirare perché si riproducano e si moltiplichino in ogni dove, perché quando la resistenza avanza, il nulla retrocede. XM24 è la storia infinita che combatte contro il nulla che avanza. Siamo ancora tutte e tutti pazzi. Arrendetevi! Vi porgo un cordiale saluto a coloro che hanno rilanciato il confronto così vitale per il nostro paese sul valore dello sgombero per uno sviluppo insostenibile delle città e per la qualità della vita dei cittadini che davvero ci interessano. No, non tu, no, nemmeno tu. E a tutte le autorità presenti e ferventi che noto con piacere stanno già lucidando il manganello per il bene comune. Una comunità innovativa che segnerà un punto di svolta nell'ambito della lotta al degrado. La comunità senza persone. Dopo attente ricerche, infatti, Bologna ha avuto la lungimiranza di capire che non è vero che alcune persone creano il degrado. Le persone sono in quanto tali portatrici di degrado, e nella loro natura purtroppo sembra incredibile, ma gli esseri umani e il decoro non vanno fisiologicamente d'accordo. Investire in isolamento, politiche sanzionatorie e limiti alla socialità, distruzione delle realtà autogestite e svuotamento della cultura dal basso, Bologna sta dimostrando di saper finalmente tenere provincia più remota del Veneto e di superarla in grandezza d'azione. Può sembrare un ossimoro, un'assurdità, un'utopia della più fervente fanta edilizia in stile abusivismo anni 80, ma Bologna si è fermata? No! Stoicamente sta mantenendo il suo intento senza dare un'alternativa valida nel silenzio di una protesta inascoltata, e non è facile per una città dal passato umano come Bologna. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo ritornati al punto di partenza, alla conclusione del corteo. Oh yeah! E sono le 11. Se mai XM24 dovesse essere distrutto, la responsabilità politica sarà interamente dell'amministrazione. La città è piena di spazi inutilizzati e se davvero chi governa fosse disponibile a una soluzione condivisa, gli basterebbe mettersi seriamente in gioco e per una volta ascoltare l'altra città. Questo ancora non è avvenuto e la giornata di oggi pretende una risposta. XM è una comunità, una parte di questa città che non è disposta a morire. Non abbiamo nessuna intenzione di lasciare che il nulla travolga quanto è stato costruito fino ad ora. Nessuna di noi vuole abbandonare le mura di Via Fioravanti 24 e allo stesso tempo nessuno è disposto a far finire 17 anni con una carica di celere o la distruzione delle ruspe. Per questo ci assumiamo la responsabilità di trovare soluzioni per continuare a far vivere questa esperienza anche altrove. Non faremo un passo indietro e se questa giornata condivisa con tutte e tutti non dovesse bastare a ribaltare le decisioni già prese dall'amministrazione, non sarà di certo questo l'ultimo corteo per XM24. Lunga vita all'autogestione, lunga vita XM! Vi salutiamo amici, io sono esausto, non so te Chiaretta. Andiamo, è ora di ritornare alla base. Ciao. Thank you.